Perfetto giorno di Alessio Maurizi. Libia oggi e oggi il premier Conte a Istanbul per incontrare Erdogan. Nelle Filippine è ordinata l'evacuazione di quasi 500.000 persone per l'eruzione del vulcano Taal. Roma, guasto a Termini, ritardi fino a un'ora, la circolazione ferroviaria, situazione tornata alla normalità. Harry e Meghan oggi il faccia a faccia con la regina Elisabetta sulla decisione dei duchi di Sussex di abbandonare lo status reale. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Nei prossimi 15 minuti le principali notizie di oggi, poi a partire dalle 13:15 gli approfondimenti. Cominciamo andando all'estero. Il generale Haftar e il presidente del governo di accordo nazionale libico al-Sarraj sono oggi a Mosca per rafforzare il cessate il fuoco e negoziare una possibile tregua. Sentiamo. Una tregua dopo 9 mesi di ostilità a Mosca e sotto la regia di Russia e Turchia è quella che viene formalizzata oggi da parte del capo del governo libico di unità nazionale al-Sarraj e il suo rivale il maresciallo Haftar, uomo forte dell'est della Libia. Entrambi arrivati al Cremlino per discutere i dettagli dell'accordo sul cessate il fuoco in vigore da ieri, frutto della collaborazione dei due presidenti Putin ed Erdogan che si erano incontrati a Istanbul mercoledì, artefici dunque di quella che potrebbe essere un punto di svolta nella crisi libica. E nonostante sia noto come i due paesi abbiano posizioni contrapposte, nei giorni scorsi Ankara ha schierato propri soldati a difesa del governo di al-Sarraj, mentre la Russia, nonostante le smentite, è fortemente sospettata di sostenere le truppe rivali del maresciallo Haftar con armi e mercenari. Haftar e Sarraj dovrebbero comunque avere incontri separati con i funzionari russi e gli emissari della delegazione turca, come osservatori ai colloqui rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti e dell'Egitto. Un cessate il fuoco, lo ricordiamo, è entrato in vigore alla mezzanotte di ieri con il plauso di Unione Europea, Stati Uniti, Nazioni Unite e Lega Araba. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E poco fa il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto sapere che la conferenza di Berlino sulla Libia si dovrebbe tenere il prossimo 19 gennaio. Saranno invitati tutti i paesi partecipanti al processo di mediazione, tra cui anche l'Italia. Italia che oggi cerca di ritrovare il protagonismo sulla scena internazionale con la visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Istanbul per incontrare il presidente turco Erdogan. Ci colleghiamo con Gerardo Pelosi. Buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi. Qual è allora il motivo di questa visita, le aspettative italiane di questa visita italiana in Turchia? Ma non c'è soltanto questa visita, è un giro nelle capitali più maggiormente coinvolte nella crisi libica, quindi adesso, oggi Ankara, la Turchia e poi domani il Cairo, forse anche l'Algeria. Nella divisione dei compiti che si sono dati l'Italia e la Germania, soprattutto la Germania ha lavorato con Putin, la cancelliera Merkel era 2 giorni fa dal Cremlino per trattare di crisi libica con Putin, mentre il Presidente del Consiglio italiano ha svolto un'opera anche di mediazione, incontrando prima il generale Haftar a Roma e poi 2 giorni fa lo stesso Sarraj, e in realtà sta cercando anche con i paesi vicini di trovare un po' il bando della matassa. Quali sono i primi passi? Sicuramente la conferenza di Berlino, che si dovrebbe, adesso abbiamo la conferma, tenersi il 19, ma allargare il numero delle presenze a Berlino anche ai paesi più vicini, e questo è quello il lavoro che sta compiendo Di Maio oggi a Tunisi a colloquio con il presidente Said, e quindi coinvolgere anche Tunisia e Algeria in questo processo che, come ha detto il presidente Macron in una telefonata con Putin, il cessate il fuoco dovrà essere verificabile e credibile. Grazie Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore ad Ankara. Avete sentito al seguito il presidente del Consiglio Conte, che poi visiterà anche altre città medio orientali. Intanto, prima di partire però, Conte ha anche cercato di rilanciare e ha parlato dell'azione del suo governo, parlando di riforma dell'IRPEF e di riforma delle pensioni. Sentiamo. Il governo è al lavoro sulla riforma dell'IRPEF, ma saranno riviste anche le pensioni. A dirlo è il presidente del Consiglio Conte, in vista della verifica di governo che si terrà dopo le regionali in Emilia-Romagna e Calabria, un voto che non sarà decisivo, ribadisce il premier in un'intervista. Alla verifica guarda anche il Partito Democratico, riunito per una due giorni nell'abbazia di Contigliano, in provincia di Rieti. Ad aprire i lavori stamattina la relazione del ministro Franceschini, che rispondendo alle critiche ha assicurato che su questioni come i decreti Salvini ci sarà discontinuità rispetto al primo esecutivo Conte. Questa idiozia della mancata discontinuità. La discontinuità c'è su tutto, sui comportamenti, sui linguaggi, sulle scelte, su ogni atto e anche sui grandi temi. È polemica nel frattempo sulla neo ministra dell'istruzione Azzolina, che secondo Repubblica avrebbe copiato parti della sua tesi di fine tirocinio alla scuola di specializzazione per l'insegnamento. La Lega chiede le sue dimissioni. Nessun plagio, quelle di Salvini sono solo sciocchezze. Lui non ha mai studiato in vita sua, replica l'esponente 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca. Traffico ferroviario fortemente rallentato nella mattinata a Roma, con ritardi anche di un'ora. Poi la situazione è tornata alla normalità, tutto per un guasto tecnico. 80 minuti di ritardo per i treni in arrivo da Grosseto, Milano-Torino, 2 ore per quello proveniente da Monaco, 80 per il Frecciarossa, destinazione Napoli, mattinata di disagi, soprattutto per pendolari e studenti, a causa di 2 guasti avvenuti prima delle 7, uno alla linea ferroviaria Roma-Termini, l'altro sulla direttissima Roma-Firenze all'altezza di Campo Marte, il primo a causa di un guasto informatico che ha provocato ritardi fino a 60 minuti, con qualche eccezione. Il secondo per un inconveniente tecnico, poi risolto, con ritardi di massimi 40 minuti. La situazione più delicata a Termini, soprattutto per gli arrivi. 5 i treni cancellati, altri parzialmente eliminati. Treni direttamente coinvolti, il Napoli-Milano e quelli in partenza per Napoli, Milano, Torino, Bari, Fiumicino e così via. Dalle 8.45, segnala Rete Ferroviaria Italiana, il traffico è tornato regolare. Studiate deviazioni di percorso con la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nelle Filippine, siamo all'estero, è stato dichiarato oggi lo stato d'emergenza e anche ordinata l'evacuazione di centinaia di migliaia di persone a causa dell'eruzione del vulcano Taal. Le autorità filippine hanno avviato un'evacuazione totale nel raggio di 17 chilometri dal vulcano Taal, che da ieri ha cominciato un'eruzione con alte colonne di cenere che finora si sono spinte fino a circa 14 chilometri di distanza. Il rischio è che da un momento all'altro la situazione possa peggiorare, con una eruzione esplosiva che potrebbe coinvolgere oltre 500.000 di abitanti nei dintorni della capitale Manila. Attualmente il livello d'allarme è 4 su 5. Il vulcano non è molto grande, ma è considerato tra i più pericolosi del mondo a causa del gran numero di persone che abitano nelle sue immediate vicinanze. Più di 25 milioni di persone, infatti, vivono entro i 100 chilometri dal cratere. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero. All'indomani di una giornata di scontri di piazza a Teheran e in altre città iraniane, la polizia ha oggi negato di aver sparato contro i manifestanti durante le proteste per l'abbattimento del Boeing ucraino. Lo ha detto il responsabile della polizia della capitale, Hossein Rahimi, sostenendo che agli agenti invece è stato ordinato di moderarsi. Diversi video circolati nelle scorse ore sui social media avevano invece mostrato la repressione delle forze di sicurezza e almeno una donna colpita alla gamba da un proiettile soccorsa da altri manifestanti. E intanto l'ambasciatore iraniano a Londra è stato convocato dal ministro degli esteri britannico per protesta dopo il fermo temporaneo denunciato 2 giorni fa dell'ambasciatore britannico a Teheran. Il governo del Regno Unito ribadisce di considerare questo un episodio inaccettabile di violazione del diritto internazionale. E siamo agli sviluppi della vicenda della Casa Reale, previsto per oggi il faccia a faccia tra Harry e la regina Elisabetta, ma anche con il fratello William, il padre, l'erede al trono Carlo, sull'intenzione dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, di abbandonare lo status reale. Si terrà nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk, il vertice della famiglia reale britannica fra Harry, la regina Elisabetta II, il padre Carlo e il fratello William. Tema della discussione è l'intenzione dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, di abbandonare lo status di membri senior del casato per rendersi finanziariamente più indipendenti e la loro volontà di dividersi tra Regno Unito e Nord America. Il principe Carlo è stato costretto a rientrare in fretta da Oman, dove ha rappresentato la Gran Bretagna al fianco del premier Boris Johnson, Johnson alle esequie del sultano Qaboos, mentre Meghan Markle dovrebbe essere collegata dal Canada, dove si trova con il piccolo Archie. La soluzione allo studio pare sia quella di uno sganciamento graduale dei duchi di Sussex dagli obblighi di corte, fino al tema chiave delle risorse finanziarie e dei milioni di sterline dell'appannaggio reale. Harry e Meghan, da parte loro, accelerano sulla registrazione del marchio Sussex Royal, sotto la cui etichetta mirano a concentrare future attività di raccolta fondi e beneficenza, ma anche attività commerciali. E intanto non si dà pace il principe William, che, rattristato ad un amico, avrebbe confidato: «Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, ma ora non posso più farlo. Siamo entità separate». Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:11 è il momento di parlare allo sport, il calcio, dai dolori della casa reale britannica a quelli del calcio italiano, perché questa forse è la cosa che ci rimane di più della giornata di ieri, Serie A. Carlo Genta, buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. La giornata del campionato di Serie A, l'infortunio a Zaniolo a pochi mesi dall'Europeo. Sì, e anche di Demiral. Perché è notizia di oggi che anche per Demiral si tratta di rottura del crociato, quindi sono due giocatori nella stessa partita che si fanno male in modo molto serio, infortunio molto simile peraltro, dal punto di vista degli esiti, entrambi sotto i ferri. Zaniolo, a rischio per l'Europeo, è chiaro che quelle immagini hanno colpito tutti. C'è un dato particolare che approfondiremo poi, perché come tu sai hanno giocato Roma e Lazio sullo stesso campo a distanza di 24 ore praticamente, non succede mai. In questo caso è successo perché l'Olimpico è previsto dal regolamento di quest'anno che l'Olimpico dovrà essere libero nell'ultima giornata, quindi dovranno giocare entrambi in trasferta perché deve essere apparecchiato per l'Europeo. Dunque c'era questa strana congiunzione astrale, risultato probabilmente casuale, due infortuni così gravi. Ne parleremo con Vincenzo Pincolini, storico preparatore atletico italiano del Milan, della Nazionale, eccetera eccetera. Parleremo di esiti del campionato con la signora d'inverno, Juventus campione d'inverno, l'Inter che insomma se l'è vista brutta con l'Atalanta, chiede rinforzi, probabilmente arriveranno in settimana, parleremo anche di mercato e di tutte queste belle cose qui. Grazie Carlo, ti ritroviamo naturalmente con tutti i convocati dopo il GR delle 14, Effetto Giorno fa una piccola pausa, noi torneremo invece tra poco dopo le informazioni sul traffico, parleremo dei casi di meningite tra Brescia e Bergamo che stanno scatenando forse una vera e propria psicosi, quantomeno una giusta corsa alle vaccinazioni, e cercheremo di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere con il virologo dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare i titoli di oggi, anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco. Effetto Giorno. Libia oggi, la firma della tregua tra Haftar e Sarraj a Mosca. Oggi il premier Conte ad Ankara per incontrare Erdogan. Nelle Filippine è ordinata l'evacuazione di 500.000 persone per l'eruzione del vulcano Taal. Roma, guasto a Termini, ritardi fino a un'ora nella circolazione ferroviaria, situazione poi tornata alla normalità. Aumentano le preoccupazioni per i casi di meningite tra Bergamo e Brescia, in chiesa a Sarnico niente stretta di mano. A Effetto Giorno tutto quello che c'è da sapere con il virologo Giovanni Rezza. Addio a Giampaolo Panza, raccontato l'Italia della politica e poi quella dei vinti dalle lotte partigiane. Harry e Meghan oggi le faccia a faccia con la regina Elisabetta sulla decisione dei duchi di Sussex di abbandonare lo status reale. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Come detto dai titoli, andiamo tra Bergamo e Brescia, dove nelle ultimi giorni c'è stato un boom di vaccinazioni contro il meningococco C. Sarebbero oltre 20.000, è una vera e propria corsa agli ambulatori, alle farmacie, dopo che nelle ultime settimane si sono verificati 4 gravi casi di infezioni. 2 di queste sono risultate poi letali. Ne parliamo con Giovanni Rezza, virologo, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto. Allora, addirittura ieri durante le celebrazioni della messa un parroco a Sarnico ha invitato i fedeli a non scambiarsi il classico segno di pace, cioè una stretta di mano. Una misura esagerata o no, Rezza? Le chiedo intanto questo. Sì, per carità, dopo non vorrei contraddire me stesso, nel senso che noi diciamo sempre lavatevi le mani perché riduce certo. Riduce il rischio di infezioni, ma soprattutto per l'influenza, il raffreddore. Per quanto riguarda il meningococco si trasmette per contatto molto stretto, come per esempio avviene nei locali quando ci si dà i bacetti, soprattutto fra gli adolescenti, no? Sì. Quindi certamente questa è una misura, diciamo, esagerata, questo sì, non bisogna neanche, come dire, scatenare il panico, allarmarsi troppo, anche se una situazione del genere è una situazione che deve certamente vederci molto, molto attenti, ecco. Sempre sul pezzo. Perché che non situazione è questa, Rezza? Che situazione è questa? C'è un focolaio particolare? C'è una situazione fuori norma nella zona tra Brescia e Bergamo? Beh sì, perché ci sono stati diversi casi di dopo noi diciamo meningite per semplificare, però è un meningite o sepsi è ancora più grave, l'infezione generalizzata quando il germe si riproduce nel sangue, da meningococco, che è il germe che causa appunto la meningite anche. Allora, che succede? Che ci sono stati 5 casi in una zona molto ravvicinata, 4 erano correlati fra di loro perché si tratta dello stesso batterio, un tipo meningococco C, mentre il 5° era dovuto a meningococco B, quindi non c'entrava niente, sono quei casi sporadici che si verificano in continuazione in Italia. Quando si verificano più casi dovuti allo stesso ceppo in un periodo di tempo ravvicinato, noi diciamo che c'è un focolaio. Questi focolai possono essere estesi, come fu il caso della Toscana nel 2015-2016, lo ricorderete tutti, là ci fu un allarme piuttosto importante, oppure ancora circoscritti come in questo caso. Io quello che posso dire è che non possiamo escludere che si verifichino altri casi, perché prima che una campagna di vaccinazione abbia effetto, comunque sia passa una settimana, 10 giorni, però la reazione in questo caso è stata davvero molto molto rapida e le autorità sanitarie locali, quindi la regione sì. insieme a noi dell'istituto, insieme al Ministero della Salute, si sono dati da fare molto. Ecco, ricordiamo infatti, Rezza, che il 54% della popolazione tra i 18 e i 60 anni risulta essersi vaccinata tra le province di Bergamo e Brescia dopo questi casi, c'è cioè una percentuale molto, molto alta. E anche sotto le vacanze, allora è vero che la gente, io capisco, no, dice ma dobbiamo fare queste file così lunghe e via dicendo, però ricordiamo che questi operatori sanitari hanno tenuto aperti i centri vaccinali anche il giorno della Befana, anche la domenica, quindi si sono dati molto da fare, la reazione, la risposta è stata molto rapida, molto importante. È chiaro che più persone si vaccinano in quella zona, in quei comuni, nei comuni colpiti chiaramente, prima si fa ad arrestare la circolazione del batterio. Assolutamente. Ci vuole qualche giorno, questo è chiaro, nel frattempo speriamo bene, perché in qualche caso io non posso escludere che si verifichi, no? Ecco, ma ci possono essere delle ragioni particolari, ci sono delle ragioni particolari per questo focolaio che si è determinato, perché naturalmente glielo chiedo da uomo di scienza che dà le risposte sulla base delle evidenze e di quelli che sono gli studi scientifici, no? Perché invece sui social, i soliti social, ma poi la voce gira, ci sono sentite le tesi più incredibili, no? I meningococchi girano, c'è poco da fare. Purtroppo da un po' di tempo in Italia circolano anche questi ceppi che noi definiamo come iperinvasivi di meningococco C, che vuol dire che sono dei ceppi più aggressivi, perché il meningococco passa di persona in persona e solo raramente da una malattia, in genere da un'infezione o una colonizzazione che non provoca sintomi. E in questo modo circola la popolazione. Questi ceppi iperaggressivi danno più spesso malattie e quando danno una malattia anche più grave. Ne abbiamo avuto i casi non solo in Toscana nel 2015-2016 nella famosa epidemia, ma anche al porto di Livorno arrivò una nave, stessa storia, a Treviso, a Milano vi ricorderete un paio d'anni fa quelle due studentesse che svilupparono una malattia grave, letale, nel giro di pochi mesi nella stessa facoltà universitaria. Ed ora evidentemente è stato introdotto lì nella zona del vicino al lago di Seo e ha trovato le condizioni per diffondersi. Dopo è chiaro, quando si frequentano locali sovraffollati in periodo invernale è più facile che si diffondano per contatto molto stretto, perché è un batterio molto fragile nell'ambiente, quindi può accadere. Le ragioni, i motivi per cui in una zona piuttosto che in un'altra, questo è difficile da individuarli. Va bene, grazie Giovanni Rezza per essere stato con noi, il virologo dell'Istituto Superiore di Sanità, naturalmente, e queste sono le cose che si possono dire a questo punto. Avete sentito uno sforzo notevole di vaccinazioni che è stato fatto nella provincia tra Bergamo e Brescia, il 54% delle persone risultano essere vaccinate, lo sono il 93% dei bambini nati dal 2016 in avanti. Sul territorio nazionale la percentuale credo che sia leggermente più bassa, ma insomma adesso non voglio riaprire una discussione sull'obbligo delle vaccinazioni adesso. Invece, quando sono le 13:22, vogliamo dedicare un spazio alla scomparsa di Giampaolo Panza, 84 anni, storica firma del giornalismo, soprattutto giornalismo politico italiano, a partire dagli anni 60 e 70, dalle colonne di Repubblica e poi dell'Espresso, poi fino ad arrivare più recentemente al suo impegno e soprattutto gli scritti più controversi, quelli dedicati alla guerra civile tra i partigiani, la resistenza e invece il fascismo. E allora sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi soprattutto su queste controversie. C'è un libro che funziona da spartiacque nella vita di Giampaolo Panza, morto ieri a 84 anni. È Il sangue dei vinti, uscito nel 2003 per i tipi di Sperlin e Kuffer. Su quelle pagine nasce la nuova narrazione sulla resistenza, dove Panza veste i panni dello storico che punta il dito sulle cosiddette malefatte dei partigiani nel dopoguerra, gli omicidi dei liberatori, santificando appunto il sangue dei vinti, quello dei fascisti. Ed è esattamente lì che Panza rompe con il suo passato di giornalista di sinistra e con i suoi lettori di sempre. Lui che aveva raccontato l'Italia del boom economico, della sciagura del Vajont, delle stragi e del terrorismo, fino alla dura critica a Craxi, al CAF, alla Casta, anche al PC. Quel Panza che aveva rappresentato un punto nodale del giornalismo sulle pagine della Stampa di Giulio De Benedetti, sul Giorno di Italo Pietra, sul Messaggero, Corriere della Sera, Repubblica, diventando una delle grandi firme del gruppo Espresso alla Repubblica. Ma è sul suo revisionismo, meglio sul rovescismo, che Panza consuma il vero strappo. Negli ultimi anni lo porta verso l'altra sponda, quella che in fin dei conti aveva combattuto da giovane universitario con la sua prima tesi, divenuta poi libro, l'inizio della sua carriera, Guerra partigiana tra Genova e il Po, dove allora invece i partigiani erano i veri liberatori d'Italia. Parliamo adesso delle anticipazioni del libro del Papa Emerito Ratzinger, anticipazioni diffuse ieri dalle Figaro, che tra l'altro proprio nei giorni in cui su Sky è ripartita la seconda serie della serie televisiva dedicata a Sorrentino alle vicende del Papa e dei Papi, The New Pope, ci sono anche lì due Papi che si fronteggiano. Allora diventa tutto molto interessante e affascinante. Due Papi che tra l'altro si fronteggiano, con un terzo Papa che entra ed esce subito dalla serie, composizioni che possono anche in qualche modo ricordare quelle di Bergoglio e di Ratzinger. Ne parliamo con Franca Giansoldati, vaticanista del Messaggero. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo, di questo libro anticipato dalle Figaro, che si intitola Dal profondo dei nostri cuori, la parte che è più colpito è stata quella sul celibato, cioè la tentazione del pontificato di Francesco, che recentemente, a proposito del sinodo sull'Amazzonia, aveva fatto capire che ci poteva essere un'apertura, se non solo per quel caso specifico, proprio al fatto di vescovi, diciamo, sposati, proprio per andare incontro alla carenza di vocazioni in Amazzonia. Invece ieri Ratzinger, in questa anticipazione alle Figaro, ha detto: non posso tacere, non cediamo sul celibato. Però, Franca, la prima cosa che ti chiedo, come era partita questa questione sul celibato? L'ho in parte ricordato io, riguardava il sinodo sull'Amazzonia. Com'è che si è riaperta nella Chiesa la questione? La questione va avanti, diciamo, dagli anni 70, quindi bisogna sempre andare un pochino indietro. Già ai tempi di Paolo VI c'erano comunque delle istanze che chiedevano un'apertura, che chiedevano l'abolizione del celibato, quindi l'apertura ai preti sposati. Chiaramente adesso la questione è ritornata di grande attualità per il semplice motivo che in alcune zone del mondo non ci sono vocazioni e quindi ci sono alcuni vescovi, tipo in Brasile per esempio, ma anche in Germania, che in assenza di vocazioni pensano che possa essere una opzione, visto che peraltro anche nella Chiesa Cattolica c'è una tradizione di preti sposati. Chiaramente questa area di riforme, diciamo, sì, così, è un passaggio che non può sicuramente andare avanti, perché si sono pronunciati contro Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e anche Francesco. Francesco ha sempre detto: non sarò io ad aprire la questione dei preti sposati. Questo è vero. E invece la posizione di Ratzinger è emersa di nuovo con questa anticipazione di questo libro, qual è? Ma interessantissima questa cosa qua di Ratzinger, perché lui, novantenne, sempre più debole, decide di fare la sua ultima battaglia da grande teologo. È chiaro che un intervento di questo genere fa sì che non ci sia più partita, cioè se una questione teologica di questo genere viene stoppata, viene bloccata dal più grande teologo vivente, è un messaggio che lui sta dando alla Chiesa in Germania, dove è in atto un processo sinodale, dove vogliono fare riforme in questo senso, ma anche un messaggio a tutta la Chiesa. Peraltro l'altra cosa molto interessante è che questo intervento qui non è stato concordato con nessuno, cioè mentre ad esempio l'anno scorso, quando c'è stato il summit sulla pedofilia e Ratzinger ha pubblicato quelle 30 pagine di riflessione sulla pedofilia nella Chiesa, ecco, prima di mandarle di farle pubblicare a questo periodico bavarese, le aveva mandate, per rispetto eccetera, le aveva mandate a Francesco. Stavolta, da quello che a noi risulta, è una cosa proprio improvvisa, e questo è un po' un colpo basso, ecco, diciamo così. E quindi tu prima dicevi del film dei due papi, è chiaro che in questo caso è molto caso suggestivo la cosa... il parallelismo, certo. Fa un po' venire in mente una fiction del genere. Una fiction del genere, adesso ci stiamo riferendo proprio a New Pope, la seconda serie televisiva dedicata a Sorrentino, alle vicende del Papa, nella quale peraltro, insomma, c'è un Papa che si chiama Francesco e che regge soltanto pochissimi giorni, perché poi cede agli intrighi del Vaticano e, a quello che si capisce dalle prime puntate, viene eliminato, viene ucciso, perché forse proprio perché è troppo progressista. Del resto l'immagine di questi due papi, uno più progressista e uno più conservatore, Ratzinger e Bergoglio, sembra insomma davvero le due anime che ci sono all'interno della Chiesa. Sulla questione del celibato però Franca Giansoldati, vaticanista del Messaggero, grazie per essere stata con noi, dice che sostanzialmente questa di Ratzinger è come mettere la pietra finale, tombale, su questa ipotesi, che tra l'altro lo stesso Francesco non ha mai realmente detto di voler adottare, di aprire all'abolizione del celibato tra i preti della Chiesa Cattolica. 13:30, 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno, come sempre. Ci risentiamo tra pochissimo. Effetto giorno. Libia, oggi la firma della tregua tra Haftar e Sarraj a Mosca. La conferenza di pace è convocata a Berlino il 19 gennaio. Premier Giuseppe Conte intanto è in Turchia per incontrare Erdogan. Nelle Filippine è ordinata l'evacuazione di 500.000 persone per l'eruzione del vulcano Taal. Harry e Meghan oggi il faccia a faccia con la regina Elisabetta sulla decisione dei duchi di Sussex di abbandonare lo status reale. Il punto di Alberto Orioli. Salvo sorprese, la photo opportunity di oggi con Sarraj e Haftar che firmano a Mosca il cessate il fuoco fa capire dove sia il vero baricentro della questione libica. A Mosca, naturalmente, di riflesso anche ad Ankara, dove peraltro oggi va Conte. Vladimir Putin usa l'influenza russa nella regione per recuperare il ruolo internazionale. Era uno dei principali fornitori di armi di Gheddafi e ora di Haftar. Gestisce una formazione di miliziani, il gruppo Wagner, che ha avuto un ruolo rilevante nel conflitto. Lo schieramento pro-Haftar vedeva insieme del resto Mosca, Parigi ed Emirati Arabi. La Turchia di Erdogan, che ha difficoltà interne e cerca nuova visibilità, fa ricorso alla retorica del vecchio impero ottomano di cui la Libia era parte, luogo dove morì Ataturk, padre della Turchia moderna, e oggi rivendica un ruolo, dopo quello avuto in Siria, nella gestione libica dopo aver inviato droni e armi in abbondanza a Sarraj. Nel mezzo l'Europa, senza una posizione unitaria nonostante l'attivismo del nuovo Mr. Pesce, lo spagnolo Josep Borrell. L'Italia da ultimo ha lanciato l'idea dei caschi blu ONU, naturalmente comandati da un italiano, come fu in Libano e fu un esempio di efficienza e di plauso mondiale. Sembra l'asso calato a partita chiusa, ma nonostante questo la maggioranza è già divisa. Con Jacopo De Franchi in redazione, Paolo Corleone in regia, Alessio Maurizi vi augura buona giornata.